E gnacchia alla formica, Fosco Marelli. Io t'amo, Pia Cicala, e un trill'argento ci spaffera nel cuor la tua canzona. Canta, Cicala, frinfera nel vento, e gnacchia alla formica mucchiarona. Che vuole la formica con quell'ube da Moghera burbiosa, è vero, arzia per tutto il giorno, e tramiga e cucube col capochino e mogna micrargia. Verrà l'inverno, sì, verrà il mordese, verranno tante gosce agramarine, ma intanto il sole schicchera giglese e sniellida tra crondole belvine. Canta, Cicala, cantera in Manfrore, il mezzogiorno zampiga e leona. Canta, Cicala, in zilleri d'amore. E gnacchi alla formica mucchiarona.